spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. Buona giornata, è il 5 agosto, c'è un traffico incredibile sulle strade, quindi naturalmente continueremo a darvi gli aggiornamenti. Oggi però, nel corso di Spunti di Vista, parleremo di farmaci, anzi della lotta per far sì che un farmaco che potrebbe restituire speranze e qualità della vita sia reso disponibile dall'azienda. L'azienda che lo produce, naturalmente, per meno di quei 58.000 euro a terapia che oggi costerebbe al sistema sanitario. Mi rifaccio a un articolo della Stampa di ieri, ma ce ne sono molti anche sulla stampa internazionale. Sovaldi, questo è il nome commerciale del principio attivo, è il primo farmaco in grado di sradicare in 12 settimane l'epatite C, che solo in Italia minaccia l'esistenza di 500.000 di persone. È chiaro che tutti seguono con il fiato sospeso questa guerra tra l'AIFA contro uno dei giganti farmaceutici, la Gilead Sciences. Certo, si può guadagnare anche in ambito farmaceutico, ma si può speculare. È una tematica che affronteremo alle 8:30, però. E alle 9, sempre nel corso di Spunti di Vista, dopo il giornale radio, parleremo di carisma, influenza, non so, gli aggettivi trovateli voi. Vogliamo chiederci oggi cosa definisce un leader, perché si parla spesso dell'Italia come di un paese che ha problemi di leadership, dove la classe dirigente c'è inevitabilmente, anche troppa, anche troppo pingue, ma è selezionata male. È così? E quindi che caratteristiche ha un leader, cioè non solo un politico, un manager, qualcuno che ha la guida di un team, ha una responsabilità? Tu, Peter, sei un leader? Sorride ma non si tira indietro. Leader anche nella regia, per esempio Peter Bescapé. Comunque, cosa accade in Italia? Che i crediti, quando si centra un obiettivo, sono sempre dei vertici che si spartiscono bonus, aumenti e quant'altro in termini di benefit. Poi appena qualcosa si incrina, a saltare i primi sono i lavoratori. Questa è la realtà diffusa. Ci sono anche leader che invece prendono con estrema serietà il ruolo che rivestono. E se voi fate parte della schiera dei leader o di chi lavora con un leader, potete cominciare a chiedervi quelli che sono obiettivi misurati da vere e proprie tecniche scientifiche, perché esiste la scienza anche nel campo delle risorse umane. E potete chiedervi se il vostro leader o voi stessi, se siete uno, per esempio, questo è un indicatore che misura la sua capacità, si assume la responsabilità delle proprie decisioni, traduce le proprie azioni, intenzioni veramente, in azioni concrete. E quando definisce un progetto, vi attacca anche tempistiche reali, coperture reali, risorse disponibili realistiche, utilizza dei metri sfidanti ma raggiungibili, così che da non generare frustrazione. Questi sono solo alcuni dei questionari che vengono distribuiti in corsi di altissima formazione, non ai leader, attenzione, che seguono questi corsi, ma a chi veramente poi in azienda o nella situazione pratica da cui provengono questi studenti lavora con queste persone, perché un conto è misurarsi da sé, un conto farsi misurare da altri. Tutte tematiche, dicevamo, che affronteremo alle 9. Potete già prenotare le vostre telefonate all'800 24 00 24. Quali sono le caratteristiche di un leader? Visti da fuori. 8:18, arigato, si dirà così. Buongiorno al nostro corrispondente dall'estero, oggi straniero, sì, ma giapponese. Buongiorno a Tetsuro Akanegakubo. Pronto? Tetsuro? Ma vengono presi da degli attacchi di timidezza a volte i nostri corrispondenti quando si tratta di parlare con noi. Nella pre-intervista non riesce a fermarli, sono dei fiumi in piena. Poi in diretta, di colpo, sviluppano tutte queste problematiche strane con le linee telefoniche italiane. Tezzuro, sei con noi? Ci hai raggiunto? Quindi mentre richiamiamo Tezzuro ci soffermiamo anche sul concetto di leadership in Giappone, che tra poco condivideremo con lui. È molto interessante quello che abbiamo scoperto nel rapporto tra cultura giapponese e colui che deve ispirare, colui che deve guidare. Tezzuro, sì? Buongiorno. Buongiorno. Avevamo sfoggiato un buongiorno in giapponese che insomma è irripetibile. Come si dice? Bene, buongiorno, ohayo. Ohayo. Ohayo, è facile. È molto facile, benissimo. E quindi noi ti salutiamo, ohayo. Vogliamo sapere innanzitutto da quanti anni vivi in Italia? Io sono da 77 alla stampa estera come corrispondente. E pensate che Tezzuro ci racconta in Giappone sul quotidiano di Tokyo, il Sakai Shimpo, ormai dal 77. Diciamo che l'80% dell'idea che i giapponesi hanno dell'Italia è sgorgata anche dalle tue osservazioni. Recentemente cosa hai scritto? No, allora, ultimamente ho scritto su pena di morte, quello che è stato dato premio da Nessuno Tocchi Caino. Questo era l'ultimo. Poi ho fatto parecchie su Renzi, elezioni, eccetera, eccetera. La riforma. La pena di morte, perché il Giappone, non tutti lo sanno, è uno dei paesi in cui ancora esiste questa forma di pena. Ma ti vorrei chiedere, Tezzuro, c'è discussione in Giappone sulla pena di morte o no, è data per acquisita, non suscita dibattito? Purtroppo poco. Poco perché per i giapponesi pagare con la vita sbaglio che ho fatto e mi sembra abbastanza sentito. Cioè fa parte della cultura la possibilità di pagare con la vita un errore che si è fatto. Infatti il suicidio in Giappone mi sembra 10 volte più dell'Italia. Anni scorsi è arrivato a 30.000 anno. Quindi questo anche spiega ai giapponesi cosa pensa della vita e come pagare lo sbaglio. E prevale dunque questo senso comune giapponese su un eventuale dibattito pubblico sulla possibilità di abolizione della vita di morte. Sì, ma pensano che dice allora il sentimento dei familiari di vittima prevale è quello che noi in genere parliamo della ragione, cosa vuol dire la pena. La pena deve essere istruttiva, quindi uccidendo uno sbagliato non istruisce, ma cioè, per i giapponesi è più importante il sentimento dei familiari delle vittime. Sì. Senti Tezzuro, sì. Quando tu parli dell'articolo che hai scritto, sì, contrario alla pena di morte, quali sono le argomentazioni che hai proposto anche per una riflessione ai tuoi connazionali? Sì, anche perché che nel mondo, sì, cosiddetta paesi progrediti o avanzati, sì, solo Giappone e Stati Uniti esiste ancora la pena di morte. Il resto hanno quasi tutti smesso, quindi con globalizzazione non credo che sia solo per economia, ma anche valore e diritti. Per questo io cerco di fare capire ai giapponesi che dobbiamo adeguarci anche alla mentalità del mondo. Bellissimo, una lezione di educazione civica questo tuo articolo. La globalizzazione non può fermarsi alla vendita di automobili, diciamo così. Poi tra l'altro il Giappone è un paese che sull'export ha sempre puntato molto. Come va con Shinzo Abe? Apriamo una pagina ancora una volta sul Giappone. Qual è il tasso di popolarità in questo momento del vostro leader? Sì, fino a un mese fa aveva il 60%, adesso si è salito di sotto un pochino del 50%, non non per ragione economico, perché l'economia mi sembra che sta riprendendo, ma soprattutto questa sua politica di, come si dice, non dico la guerra, ma antipace, perché vuole modificare la Costituzione giapponese che vieta l'intervento armato al di fuori del confine. L'articolo 9 della Costituzione giapponese, sì. Shinzo Abe è intervenuto a gamba tesa, diciamo così, prevedendo una modifica in termini interventisti. Questo non è piaciuto alla popolazione. Qual è il rapporto euro-yen invece? Attualmente mi sembra un euro e 140 yen. E fino a due anni fa era un euro, era 110, così, quindi molto sceso lo yen giapponese. Beh, io approfitto della tua presenza per girarti una domanda che molti imprenditori italiani addetti all'export soprattutto si fanno. Questa politica, questa svalutazione della moneta locale ha aiutato poi le esportazioni? No, l'esportazione non ha aiutato, anzi ha aumentato, dato che importazione soprattutto energia elettrica e fonte energia, ma anche materia prima, è aumentato il passivo, cioè adesso il Giappone commercio con l'estero è passivo, non è più attivo, mentre attivo entrata dei royalty eccetera eccetera. Quindi non ha centrato nel segno che si era preposto Shinzo Abe? No, perché maggior parte delle industrie giapponesi hanno ormai fabbriche all'estero, quindi anche se scende lo yen non esporta dal Giappone, ma piuttosto che importa dall'estero prodotto sempre cose fatte dall'azienda giapponese in Giappone, quindi quelle sono aumentate. Chiaro, quindi chiarissimo. Senti Tezzuro, sì. Hai detto, hai scritto sulla pena di morte e poi hai scritto di Renzi. Cosa hai scritto di Renzi? Renzi è l'ultima possibilità per l'Italia di poter cambiarsi. L'ultima chance, tu dici? L'ultima chance, sì, penso di sì. Adesso dopo 30 anni tu ormai capisci il paese. Sì, allora io vedo, confrontando i giapponesi e gli italiani, io penso che singolo italiano, in maggior parte, sono più bravi dei giapponesi. In che senso? Ci sono 10 giapponesi e 10 italiani, io penso che vinceranno quei giapponesi, perché gli italiani sono troppo bravi ciascuno, quindi ognuno fa conto proprio, non ci riescono mai a fare insieme le cose. Due italiani fanno tre partiti, dice un vecchio adagio. Beh, molto interessante, molto intelligente questa tua osservazione. No, no. Dunque, sì. Diamo un voto positivo all'italiano singolo in sé come portatore, diciamo così, di valori e buone intenzioni, ma messo in gruppo non avremo una somma di questi valori, perché ognuno poi lotterà per il proprio, diciamo così, particolarismo, se non vogliamo definirlo egoismo. No, sì, è così, quello che me ne accorgo è questo. Poi certamente in Italia prevale molto queste piccole, come si dice, privilegi che non vogliono cambiare, questo forse collegato a quello che ho detto prima, i giapponesi si fa convincere abbastanza facilmente dalle stampe o dal governo quando dice che deve fare così, cerca di farlo, mentre gli italiani fanno per il bene comune che prevale. Sì. E prima di salutarci, Tezzuro, sì, vorrei capire da te qual è il concetto giapponese di leader, cioè se voi quali sono le caratteristiche che deve avere in Giappone qualcuno per essere considerato all'interno di ogni organizzazione, non sto parlando necessariamente solo di politica. Prima di tutto certamente essere responsabile di quello che fa e non dare colpa agli altri, ma a parte questo, di fare capire a tutti i personali quello che sta facendo è la finalità di un'azienda, ma soprattutto anche di saper creare il suo successore, cioè bisogna individuare la persona brava da poter mandare avanti quando non ci sarà più lui, o fare passaggio senza trauma. Questo è, come dire, è molto importante. Beh, è un passaggio cruciale, fondamentale nel mantenimento della ricchezza, non solo materiale, del patrimonio che si è creato. Sì, perché penso che i giapponesi sono come si dice, si identifica all'azienda propria identità, per questo pensa non solo, certamente deve guadagnare sé, ma anche per il futuro. Per il bene dell'azienda, capisco. Ed è il leader in genere uno nominato, portato da fuori, scelto, o è qualcuno che viene dal basso? Ma maggior parte da interno farà carriera interno e arriva a vertice, quindi maggior parte. Adesso ho cominciato ad avere un po' il moda di avere anche il presidente straniero per affrontare globalizzazione. E ti saluto, è stato molto interessante conversare con te. Una frase in giapponese, salutaci in giapponese. Saluto, ma io vorrei dire gambare. Gambare. Gambare vuol dire forza, io direi forza italiani. Gambare, grazie. Gambare anche per te, Tetsuro Akaniga Kubo, l'avete sentito, è il corrispondente in Italia del quotidiano di Tokyo, The Sakai Shimpo. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Continuano ad arrivare i vostri messaggi sul leadership al 349-238-6666. E chiaramente si parla di definizione di leader. Alcuni attingono al saggio di Sun Tzu, un filosofo cinese di molti secoli fa, e dice che niente, Marco ce lo scrive da Ferrara, niente e nessuno come lui ha colto le caratteristiche, e quindi dice addirittura che leggendo quel romanzo capiremo che in Italia non esiste nessun leader, zero leader e tantissimi ladder. È polemico Roberto da Milano, che gioca col dialetto milanese per farci capire in pratica la sua visione del mondo e dell'Italia. Ma siamo sicuri che non si possa veramente salvare nulla? Avete coraggio, fratelli? Avete cuore? Non il coraggio davanti a testimoni, ma il coraggio dei solitari, il coraggio delle aquile che neanche più un dio sta a guardare. Questo, per esempio, è una frase di Nietzsche sul coraggio, che è stato abbinato alle caratteristiche del leader in uno di quei questionari che si somministrano a coloro che leader devono diventare. Attenzione dunque, perché c'è chi dice che leader si nasce, c'è chi sostiene che già osservando i bambini all'asilo si possano notare le caratteristiche di coloro che nel corso dell'esistenza saranno semplicemente soltanto dei seguaci, e coloro che invece non assumeranno solo posizioni di comando ma di ispirazione, saranno autonomi nei giudizi e si faranno seguire. Quali sono le caratteristiche di un leader? Dunque, ne parleremo alle 9 8 00 24 00 24, se vorrete intervenire a voce e raccontarci come la vedete, che esperienza avete, se ne avete incrociato qualcuno nel corso della vostra vita, non solo professionale, può essere un leader anche in campo scolastico. Ci sono coloro che ispirano invece nella musica. Sono tantissimi i settori in cui è importante la guida, quello che emerge, quello che in qualche modo indica la strada. Dalle 9 però, perché oggi vogliamo affrontare, come annunciato all'inizio, una tematica legata a un farmaco salvavita. Buongiorno Massimiliano Conforti, buongiorno e benvenuto naturalmente. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Massimiliano Conforti è il vicepresidente dell'associazione più grande in Italia che si occupa di pazienti con epatite C, EPAC Onlus. Quanti sono, Massimiliano, in Italia i pazienti di epatite C? E attualmente si stima, una stima attendibile, sui 400-500 mila persone affette da questa patologia che sono consapevoli di avere questa malattia. Poi c'è un sommerso, una quota di sommerso di epatite C che purtroppo nessuno conosce, però più o meno si stima intorno a 1 milione in tutto, tra le persone consapevoli e le persone che potrebbero avere questo virus però non sanno ancora di averlo. E questo perché rimane asintomatico per quanto tempo? Per quanto tempo non si sa. Sicuramente è una malattia, quello che si sa è che è una malattia sintomatica che solitamente anche in fase di contagio è bassa, la percentuale dove ci sono dei sintomi presenti, una sintomatologia, però la maggior parte anche delle infezioni decorre in modo asintomatico e la malattia è del tutto asintomatica finché poi c'è un'evoluzione della malattia che si chiama cirrosi epatica o tumore al fegato, dove la persona incomincia a stare male, molto male. Quindi può succedere che ci si renda consapevoli di aver contratto il virus dell'epatite C quando ormai si è in fase molto avanzata. Massimiliano, le ho chiesto questo inquadramento, diciamo così, della problematica per capire questo scostamento tra i dati di coloro che sanno di aver contratto l'epatite C in Italia e di coloro che potrebbero averla contratta senza esserne al corrente ancora. Questo doppio dato, tra l'altro, viene dato, scusate il gioco di parole, ma viene emesso anche all'estero, sempre quando si parla di epatite C si registra un numero e un numero in genere del doppio che comprende la platea vastissima purtroppo di coloro che avrebbero potuto contrarla. Oggi parliamo di un farmaco, ci sono dei titoli polemici sulla stampa internazionale, tra poco spiegheremo perché, che potrebbe curare, potrebbe debellare l'epatite C, ma solo se te lo puoi permettere. E di che parliamo? Di un braccio di ferro, in cui va sottolineato tra l'altro che l'Italia non è sola, perché sono 14 paesi in questo momento che vogliono strappare un prezzo sostenibile per il sistema sanitario riguardo a un farmaco salvavita contro l'epatite C che è venduto a un costo minimo più o meno di 58.000 euro a ciclo, per ora è accessibile solo per uso compassionevole, solo a chi lotta tra la vita e la morte. Quindi quante sono le persone che possono fino a questo punto accedere a questo farmaco quando parliamo di uso compassionevole, Massimiliano? Attualmente in Italia questo farmaco che della Gilead, Sovaldi, attualmente non è commercializzato, non è in prontuario, perché non si è chiusa la trattativa tra azienda farmaceutica che ha questo farmaco innovativo e l'agenzia del farmaco che rappresenta lo Stato italiano per quanto riguarda i farmaci. E attualmente è disponibile solo esclusivamente, l'azienda l'ha messo a disposizione proprio perché non si è chiusa questa trattativa e c'erano moltissime persone che avevano bisogno di questo farmaco, che hanno bisogno, alcuni sono rimasti, alcune categorie fuori, e è stato dato tramite la procedura dell'uso compassionevole, quindi intorno a 1.200, sono state stimate 1.300 persone, che sono le persone che sono in lista d'attesa di un trapianto del fegato, che hanno una cirrosi scompensata, quindi una malattia molto avanzata, che rischiano anche la morte, e persone che hanno avuto un trapianto del fegato, però hanno avuto questa recidiva del virus dell'epatite C, che a sua volta sta distruggendo il nuovo fegato e quindi questa persona va salvaguardata. In pratica, Massimiliano, lei ci sta spiegando che coloro che potrebbero trarre beneficio da questo farmaco ma non sono in lista d'attesa per trapianto non possono rientrare nella definizione di uso compassionevole e di conseguenza serve uno sforzo maggiore perché chi ha bisogno di questo farmaco possa accedervi. Ora abbiamo contattato naturalmente l'azienda che produce questo farmaco, non si sono detti disponibili all'intervista perché la persona della Gilead Sciences che avrebbe dovuto intervenire si trova in questo periodo in ferie. Questo è quanto ci hanno risposto. È emblematico comunque questo caso anche per capire come anche in futuro e non solo in questo caso le autorità regolatorie del farmaco possano far fronte comune contro l'incontenibile fame di profitto segnalata ieri da Paolo Russo sulla stampa. Questa è giusto, è ragionevole, è pensabile, è concepibile che si possa guadagnare anche nel campo farmaceutico, ma speculare? E cosa si può fare per arginare tutto ciò? Abbiamo con noi Luca Pani, che ringrazio per il suo tempo. Buongiorno e benvenuto, professore. Buongiorno. Luca Pani è direttore dell'AIFA, cioè dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ed è impegnato, dicevamo all'inizio della trasmissione, in questo braccio di ferro con l'azienda. Qual è il punto? A che punto siamo? Cosa possiamo dire ai pazienti? Abbiamo anche degli ascoltatori in linea che intendono raccontarci la loro storia. Sì, allora il punto è che io ho perso la prima parte perché non a collegarci, quindi non ho sentito quello che avete detto, mi scuso se mi ripeto, quindi perché questa negoziazione si è bloccata perché a un certo punto la quantità di pazienti che noi intendevamo trattare era molto più alta di quella che la Gilead avesse immediatamente preventivato, e devo dire, da un certo punto di vista, giustamente loro hanno voluto ricalcolare quello che poteva essere l'impatto economico, perché dovevano abbassare notevolmente il prezzo, almeno questa era stata la nostra richiesta. Professore, la blocco subito per dare alcune cifre. Cioè, è stato scritto, e queste sono le cifre che circolano non solo sulla stampa italiana, ma anche per esempio quella canadese sotto di me in questo momento, che questo farmaco è venduto a un costo minimo di 58.000 euro a ciclo. È così? Negli Stati Uniti, dunque, il prezzo di vendita non negoziato negli Stati Uniti, perché poi c'è anche una negoziazione che non fanno le agenzie regolatorie, perché gli Stati Uniti non hanno un'agenzia regolatoria del prezzo, ma lo fanno le compagnie di assicurazione, è intorno ai 56-58 mila a ciclo, cioè per 12 settimane. Devo dire che ci sono degli sconti medi poi delle assicurazioni degli Stati Uniti per circa il 20%, e ci sono, questo l'abbiamo preso, ma io non ho la certezza di questo numero, ci sono degli sconti fatti fino al 40% negli Stati Uniti per esempio l'amministrazione dei veterani, Veteran Administration Hospital, che sono quelli che hanno di solito i trattamenti a dei costi più bassi. Comunque sono delle cifre molto alte, anche perché in Italia, questo a differenza che in altri paesi europei, noi ci scontriamo con delle prevalenze di malattia che gli altri paesi non hanno, ecco perché per noi, da un punto di vista della tenuta del sistema economicamente, questo diventa un argomento anche futuro per altri farmaci antiepatite che stanno arrivando. Chiaro. E poi, professore, il nostro è un sistema universale in cui la cura è garantita a tutti, mentre invece negli Stati Uniti è un sistema completamente diverso, quello assicurativo. Pensi che addirittura apprendiamo che in Canada, dove il sistema sanitario è pubblico e esclusivamente pubblico, però i farmaci si pagano, bisogna pagarselo da sé questo Sovaldi, e quindi stanno scattando le proteste anche in quel paese. Non siete soli, non è sola l'Italia in queste richieste. Cosa si può fare? Poi vogliamo sapere da lei se conta di appunto portare alla ragionevolezza questa azienda che abbiamo detto abbiamo contattato ma non era disponibile per questa intervista. Sì, devo dire che noi con l'azienda abbiamo fatto, il ministro ci ha dato delle indicazioni molto chiare fin dall'inizio. E poi ha detto, come sapete, appunto, noi vorremmo andare verso il piano di eradicazione dell'epatite C, che nel nostro paese ha dei numeri di oltre 1 milione di abitanti infetti. Quindi questo ha richiesto per me una serie di negoziazioni continue con l'azienda, e dico la rivedrò io personalmente il 12 di agosto per continuare questo tipo di interazioni, e poi a settembre dovremo arrivare a una proposta finale. Io credo che loro, dalle informazioni che ho, arriveranno con una proposta migliore. Bisognerà vedere se è accettabile per noi. Se è sostenibile, chiaro. Sostenibile, certo. E ci sono anche paesi in cui questo farmaco è venduto a $700 a ciclo. Attenzione, e perché, ce lo spiegherà tra pochissimo. Intanto Fabrizio, buongiorno. Pronto? Pronto? Abbiamo un ascoltatore, Fabrizio, che ci segnala di aver comprato questo farmaco e di aver iniziato la cura 4 giorni fa. Ci interesserebbe sapere da lui, se lo recuperiamo, dove ha acquistato questo farmaco. E questo di Fabrizio è uno, giustamente, essendo un farmaco salvavita, Fabrizio ha provveduto a comprarlo evidentemente fuori confine, ma questa è un'altra delle possibilità che, se non si arriverà a una soluzione, a un farmaco a un costo sostenibile, si profilerà in Italia un'altra volta. Coloro che acquisteranno fuori confine, inevitabilmente, ma per fuori confine si intende il Vaticano, San Marino, anche senza grandi viaggi, ciò che può salvar loro la vita. Fabrizio, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie per averci chiamato. Lei ha cominciato a utilizzare questa cura 4 giorni fa, come si sente? Ah, sentivi, sento benissimo, stavo correndo, adesso ho smesso per parlare con voi. Quindi a livello di effetti collaterali devo ammettere che non c'è neanche uno per quanto mi riguarda. E questa è una testimonianza importante, ci piace averla in diretta. E dove ha preso il farmaco? Dove l'ha comprato? Allora, io volevo iniziare dicendo una cosa, cioè con un numero, 18.800, che sono gli euro che ho dovuto spendere per il primo ciclo. Per il primo ciclo? E quanti saranno? Allora, il ciclo, che loro stimano in tre mesi, in effetti è nella migliore delle ipotesi. Cioè per quei pazienti che risponderanno subito. Io faccio parte di una categoria che sono di non responder, cioè che ha provato prima altre cure, sì, a base di tapperone, che non hanno. Quindi l'accordo andrà avanti per 6 mesi. Quindi lei deve moltiplicare 18.800 euro per 6. Siamo oltre i 100.000 euro, così a occhio e croce. Siamo oltre i 100.000 euro a occhio e croce, no, senza occhio e croce, siamo oltre i 100.000 euro. Sì. Poi tenga conto che questi farmaci qua di solito vanno abbinati ad altri, e non riusciamo a concludere questa conversazione con Fabrizio, che cercheremo di recuperare. Grazie per le vostre testimonianze. 800 24 00 24. Andiamo un attimo sulle strade d'Italia, torniamo insieme al professor Luca Pani e Massimiliano Conforti, ai nostri ospiti, tra qualche istante. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E abbiamo avuto la conferma dal nostro ascoltatore che sta correndo, non riusciamo a recuperare. Fabrizio, l'acquisto del farmaco è avvenuto a San Marino. Presto però noi vorremmo che questo farmaco fosse disponibile in Italia per le 500.000 persone interessate per ora, coloro che sanno, sono consapevoli di aver contratto l'epatite C. Pronto, buongiorno a Bruno. Pronto? Sì, buongiorno. Grazie per averci chiamato, Bruno. Dica. Salve. Io intanto vorrei capire una cosa. In Egitto questo farmaco è venduto credo intorno ai 700 euro al ciclo e va bene, ma secondo me non si deve fare solo un conto numerico del denaro. Intanto molti trapianti non andrebbero effettuati, perché se io ho l'epatite C e riesco a essere trapiantato prima che il mio fegato scompensa, io quasi al 90, adesso io non sono un medico, però quasi al 95% dei casi riesco a non essere trapiantato se negativizzo. Poi un'altra cosa, al Policlinico di Milano, io sono stato trapiantato allo Spallanzani di Roma, che è un posto eccellente per questo tipo di... E al Policlinico di Milano questi farmaci è vero che sono compassionevoli, però una volta somministrato l'interferone è comunque un farmaco che ha un costo e il paziente non negativizza, gli viene dato con una facilità maggiore rispetto a quello che succede a Roma. Adesso io. Cioè, lei sta chiedendo un trattamento omogeneo sul territorio nazionale, certo, a quanto capisco. Assolutamente. E Bruno, innanzitutto grazie per averci chiamato, e poi giro la domanda naturalmente al professor Luca Pani, direttore dell'AIFA, oggi nostro ospite. Perché in Egitto questo farmaco è. Perché l'Egitto è riuscito a strappare 700 euro a ciclo? Come mai questo scostamento enorme nel prezzo richiesto all'Italia, professor Pani? Poi voglio fare delle precisazioni sul precedente, anche perché è una cosa importante. Assolutamente, assolutamente. Rispondiamo prima alla domanda sul prezzo, perché molti ascoltatori ce la stanno sottoponendo anche via SMS. Certo, l'Egitto è il paese probabilmente al mondo che ha la maggiore incidenza di epatite C, circa il 12-13%, che si converte in circa 12 milioni di persone affette. Ha tra l'altro una incidenza di un genotipo particolare, che è il genotipo 4, e quindi questa la poneva in delle condizioni diverse da tutti gli altri paesi, con una negoziazione governativa diretta con il governo, quindi diretta con il ministero e il primo ministro egiziano, la ha deciso di dare questo prezzo così basso, probabilmente anche per i volumi, lei dice, e anche per studiare volumi, quel tipo di effetti sul genotipo 4. Questo però che cosa significa? Significa che, ed è questo un punto fondamentale che tutti devono sapere, l'Egitto tratterà solo 1 milione di questi pazienti, solo 1 milione in 3 anni. Quindi gli altri 11 milioni non verranno trattati. E che è un'altra cosa che bisogna sapere, che questo porterà per l'Egitto un costo che, siccome il genotipo 4 è appunto quello resistente, quindi richiede per esempio due serie di cicli, quindi 6 mesi, porterà un costo di $1,800, quindi circa €1,400. Peccato per 1 milione fa 1,8 miliardi di euro. In Egitto questa è una cifra molto alta. È una cifra, certo, molto alta in termini assoluti, in termini relativi ancora di più. Le volevo chiedere una cosa prima che lei passi alle precisazioni doverose che immagino voglia fare forse sulle modalità di trapianto. Ha sentito in diretta Fabrizio, questo nostro ascoltatore che ha acquistato il farmaco 4 giorni fa, e l'ha acquistato, ce l'ha confermato durante la pausa a San Marino. C'è il rischio ora che si apra questo accesso a 2 corsie se l'Italia non riuscirà a strappare un prezzo sostenibile, per cui chi potrà permetterselo andrà fuori confine e gli altri aspetteranno? Capisce cosa intendiamo, professore? Cioè, come scongiurare? Premetto che ognuno ovviamente ha il diritto, c'è chi si è venduto la casa per comprarsi farmaci salvavita, c'è chi ha fatto sacrifici enormi e ovviamente ognuno ha il diritto di perseguire strade che possano migliorare, anche solo, non solo salvare, ma migliorare anche la qualità della vita. Sì, sì, questo è il diritto di ciascuno di noi, però c'è da dire che forse bisogna essere sicuri anzitutto che i farmaci siano salvavita, cioè di trovarsi in delle condizioni per cui il trattamento, se non procrastinato di qualche mese, implica che uno perda la vita, il che non è sempre il caso. Io non vorrei fare delle facili battute, ma un paziente che sta correndo presumibilmente non è un paziente di quelli che hanno immediata necessità di trattamento. Magari consiglierei un passaggio, se riuscite a trovarlo, con qualche esperto di epatologia, che ce ne sono tanti in Italia, abbiamo una quantità di epatologi, viste le nostre incidenze, che sono tra i migliori al mondo, quell'oro che nel tavolo che noi abbiamo riunito insieme a tutti i pazienti, tra l'altro, ci hanno alzato spiegando che quello che era necessario era scaglionare il paziente in quelli che ne avevano maggiore necessità. Questo per l'uso compassionevole, senza dubbio, però noi stiamo parlando dell'accessibilità a tutti. È corretto dire che l'epatite C, professor Pani, è la prima patologia cronica che può essere debellata nel mondo? Sì, sì, è corretto. È questo che stavo appunto dicendo. Bisogna aspettare, bisogna spiegare ai pazienti che aspettare qualche mese, e quelli che possono aspettare, quelli che non possono aspettare avranno un trattamento compassionevole gratuito. Quelli che possono aspettare, sì, in realtà devono aspettare, è molto più conveniente, perché anzitutto si andrà nel 2015, nei primi mesi del 2015, alle cosiddette terapie orali, quindi non ci saranno più le terapie. Mi scusi, l'abbiamo persa proprio, si è spezzata la linea su quell'aggettivo che lei ha usato e non l'abbiamo sentito. Terapie? Sono terapie completamente orali, senza iniezioni, che hanno effetti collaterali molto più bassi. Più contenuti? Molto più contenuti, hanno anche dei costi più contenuti e sono una combinazione tra uno e questo farmaco, il Fosbuvir e Sovaldi, e altri farmaci che stanno arrivando e sono già arrivati. Noi a settembre ne negoziamo un altro, all'inizio di ottobre-novembre iniziamo dei nuovi trattamenti compassionevoli con altri farmaci che sono combinati e che eradicano il virus 95, 98, 99, 100% di eradicazione combinandoli. Quindi il messaggio è: coloro che non possono assolutamente aspettare, sono in reale pericolo di vita, con delle certificazioni precise da parte dei loro specialisti in epatologia, hanno accesso, e noi facciamo di tutto per far avere l'accesso a questi pazienti. Certo, e gli altri potranno avvalersi di questo. Devono aspettare gli altri. Grazie, intanto continuate comunque questo braccio di ferro con l'azienda che riguarda così tante persone. Massimiliano Conforti, abbiamo sentito, lei probabilmente sa bene di cosa parla il professore. Lei da un anno è un ex paziente di epatite C. Sì, attualmente è un anno che sono negativo. Io ho avuto la possibilità in una sperimentazione di fase 3 di fare una terapia, come diceva il professor Pani, all oral, totalmente orale, che ha sortito degli effetti. Io andavo a Palermo, io ho una diagnosi di cirrosi dal 2004, sono stato trasfuso alla nascita e quindi ha contratto l'epatite C con trasfusione. E quindi posso dire che con una terapia totalmente orale gli effetti collaterali erano quasi pari a zero. Io, tanto è vero che andavo a fare i miei controlli a Palermo, tornavo a Roma e andavo anche in piscina. È fantastica la sua testimonianza, perché veramente può dare tantissime speranze a molti di quelli che ci stanno seguendo in questo momento. Quindi lo ringraziamo. È il vicepresidente dell'EPAC Onlus. Ringraziamo Luca Pani, direttore dell'AIFA, cioè l'Agenzia Italiana del Farmaco. E noi tra pochissimo ci ritroveremo cambiando argomento completamente, punto di domanda, ma chissà. E nel senso che parleremo di leadership, coloro che hanno queste caratteristiche. Quali sono secondo voi gli aggettivi, gli attributi da possedere? Ne parliamo dopo il GR. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E ancora un saluto da Irene Zerbini, siamo di nuovo in diretta con Spunti di Vista alle 9:07. Dicevamo dell'Italia come di un paese che ha problemi di leadership, dove la classe dirigente c'è ma è selezionata male. È così? Che caratteristiche ha un leader? L'abbiamo specificato, non solo politico, un manager, qualcuno che guida un team, che ha una responsabilità. Anche se, e questo spesso accade in Italia, i crediti sono sempre dei vertici. Loro si spartiscono bonus, aumenti, benefit e non solo. Poi appena qualcosa si incrina, saltano i lavoratori. Questa è la realtà con cui abbiamo aperto la descrizione della situazione della leadership in Italia. Ma vi sarà capitato di incontrare aziende con grandi competenze fino ai vertici medi, diciamo, e poi quando si va al top di incontrare incapacità e tracotanza? Di solito vanno di pari passo queste due cose. Vi è successo? Perché? Perché anche un'azienda virtuosa poi non mantiene la stessa virtù là nelle stanze dei bottoni? Perché i posti di comando sono oggetto di scambio più spesso che i posti meno ambiti, per cui diventano la merce con cui si scambiano favori, si piazzano amici, parenti, figli, e questo mina inevitabilmente anche l'opera d'eccellenza di chi lavora sotto, di chi lavora bene. Comunque noi vogliamo sapere da voi quali sono le caratteristiche dei leader. Un buon leader dovrebbe saper valorizzare il valore umano, e i vecchi leader venuti dalla gavetta sapevano individuarlo, e con astuzia sapevano stimolare il proprio staff. Ci scrive un ascoltatore al 349-238-6666. Firmatevi però! 800 24 00 24 per le vostre osservazioni. Intanto io saluto e tra pochissimo andrò a parlare con la prima dei nostri ospiti. Musica. We hate it when our friends become successful, and if they're northern, that makes it even worse, and if we can destroy them, you bet your life we will destroy. Perché siamo partiti con Morris, che ci dice we hate when our friends become successful, cioè detestiamo quando sono gli altri, i nostri amici, ad avere successo, ad emergere. Perché la questione del leader e di come viene valutato si intreccia in Italia con un'altra delle cose che abbiamo nel DNA, ma forse non siamo gli unici: l'invidia. Buongiorno Lucia Annunziata. Pronto? Sì, sono qua, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto lei è un leader e ha condotto un programma televisivo, Lucia Annunziata, che si intitolava proprio così, leader. Cos'è che la intrigava? Ma In quel caso era la formazione di un leader, no? Siccome diciamo le campagne elettorali decidono i leader politici che guideranno il paese, per me era interessante fare un programma in cui si capisse prima che qualità di leadership avevano i cittadini, questi politici, per guidare il paese. Infatti era organizzato con una squadra guidata da un leader, che poi era una squadra per partito, e cittadini di vario tipo, osservanza politica, religiosa, diciamo varie regioni eccetera eccetera, facevano le proprie domande. E secondo me questo è un modo anche per capire se è un leader, un po' grigliarlo, no? E quindi lei faceva in modo che fossero i cittadini a mettere alla prova, a esaminare la capacità di guida e di ispirazione. Metterlo al, cioè voglio dire, grigliarlo, no? Grigliarlo sulla griglia e vedere se cuoce, insomma, se sopravvive sostanzialmente. Non erano cittadini, devo dire che è stata un'esperienza per me molto bella, insomma, perché molto caotica, perché era un tipo di programma abbastanza difficile da gestire, perché i cittadini che venivano lì, noi abbiamo cercato di scegliere, avevamo cercato di scegliere a secondo della loro significanza sociale, non cittadini sciolti, insomma, no? Cioè, cosa intende per significanza sociale? Non cioè, rappresentativi di un segmento? Rappresentanza di una minima di identità sociale, no? E fosse questa, diciamo, l'attivismo delle piccole comunità, piuttosto che piccole associazioni, piuttosto che bloggers, insomma cose di questo tipo, cioè gente che già aveva una voce all'interno della cittadinanza, quindi già. E lei in quell'occasione, Lucia Annunziata, ha fatto qualcosa che secondo me, secondo il mio personalissimo e privato giudizio, che però adesso condivido, è qualcosa che solo i leader sanno fare, ma ne parleremo tra pochissimo, però mi ha molto colpito questa cosa. E invece volevo... Sono preoccupata. Preoccupata, ripeteremo... Non mi ricordo di aver fatto niente. Ha fatto una cosa molto particolare, io non l'ho mai sentita in Italia. Lei ha vissuto molto all'estero e ha fatto la corrispondente, vuole citarci alcuni dei paesi in cui ha lavorato? Ho fatto molto America Latina, Stati Uniti e Medio Oriente. E però pochissimi sanno che, oltre ad aver, tra l'altro, le è stata assegnata da Harvard una borsa di studio, aver lavorato, sì, raccontato un po' il mondo, lei è stata anche insegnante. Sì. Visto che è stata insegnante alle scuole medie dopo la laurea in filosofia. Sì, perché appena ho cominciato, insomma, facevo la militante politica e lavoravo come tutti. Ha fatto una laurea in filosofia che si intitola sul movimento operaio, che oggi sarebbe una parolaccia, nel senso che di solito le lauree oggi si fanno su appunto leadership in azienda e cose così, ma lei ha insegnato alle scuole medie e volevo chiederle proprio questo, ha avuto a che fare con i dodicenni, tredicenni, poi... Per un anno, un anno è più che sufficiente per osservare una cosa, c'è chi dice che i leader si vedono da piccoli, lei che ne pensa? Ma non lo so, non essendo un leader, non lo so, nella mia osservazione è vero che alcuni nascono con una sorta di, che io chiamo con la stella in fronte, no? Cioè in fondo fare l'analista politica è questo, individuare le doti di leadership dei politici, cioè tra chi è una mezza calzetta e chi invece ha questa famosa stella in fronte, insomma. Vuol farci qualche nome? Perché lei l'avrà riscontrata questa stella in fronte nel corso della sua attività di intervistatrice. Ma insomma sicuramente Renzi, per dire, è una persona che la stella in fronte ce l'ha fin da piccolo, si vede fin da piccolo, insomma, però non so, nel mondo del giornalismo Paolo Mieli, parlo della mia generazione, sempre parlando della mia generazione, nel mondo politico sicuramente D'Alema e Veltroni avevano fin da bambini, perché poi questa è una generazione di, diciamo, che ci conosciamo tutti da veramente ragazzini, insomma già dall'adolescenza potevi vedere cose di questo tipo, però per esempio Fini è una persona che aveva da giovane un grande carisma, insomma, no? Cioè poi un po' di questi carismi, cioè queste caratteristiche, capacità di essere un leader, poi magari col tempo la vecchiaia è brutta, no? Si consuma sostanzialmente, oppure viene consumata dall'insuccesso. Ecco, questo tipo di Ma persone... lei riconosce capacità da leader anche a persone di cui non necessariamente condivide l'operato? esattamente, infatti perciò adesso facevo il caso di Fini, no? Per dire che è una persona, sicuramente Berlusconi è una persona specialissima, insomma, no? Cioè, ma super speciale. Io probabilmente penso che per fare un caso di una persona che proprio con cui non condivido quasi nulla, insomma anzi nulla. Però è un leader, lei dice. Un super leader, cioè voglio dire, noi abbiamo avuto, quanti sono poi? Noi in Italia li abbiamo visti, abbiamo visto Craxi, abbiamo visto, diciamo appunto, Berlusconi. Quello che è la leadership è una cosa che uno si porta proprio a pelle, no? Addosso. Certo. Così come per esempio tu lo vedi di solito si dice carisma, però è quella qualità sia di empatia sia anche di decisionismo rispetto alla vita, no? È come dire che uno prende la vita per le corna. Questa è una delle cose semplici, no? Con cui empatia e decisionismo, e anche a costo, anzi, empatia soprattutto con gli altri, perché questo è molto importante. Sì. I leader introversi non ci sono sostanzialmente. No. Possono essere artisti, lei dice, quelli possono essere grandissime persone, ma non leader. Vede, questo per esempio è una cosa che si vede a tutti i livelli, perché lei vede, non è che i leader devono essere il top leader, no? Il leaderismo è una capacità di guida, di influenza della comunità. La comunità può essere piccola, può essere grande, per esempio nelle scuole lei vede un professore carismatico, un professore che non lo è, un preside carismatico, uno che non lo è. Nel nostro mondo il giornalismo, ripeto, insomma, è molto evidente, alcuni dei giornalisti che nella mia generazione sono diventati direttori, era chiaro che lo sarebbero diventati, ma quando avevano 15-16 anni, a meno di 20 anni già lo sapevi, in sostanza, no? Cioè lei si è sorpresa poche volte che poche qualcuno volte, sia arrivato? Sì, perché è una cosa, è una combinazione proprio molto fisica, la vedi anche proprio fisicamente, è come se uno emanasse una sorta di energia, questo è poi il carisma. Poi che tu condivida o meno quello che fa, non importa, però quello sa influenzare, sa farsi seguire. Sì. Poi naturalmente questo va combinato. Il nostro Renzi al momento ne ha al 1000 per 1000, diciamo, di questa capacità. Naturalmente il punto cos'è? Che uno può avere le qualità carismatiche del leader, che io divido appunto in questi termini, no? Cioè l'empatia con le persone e la capacità di prendere la vita per le corna, che sono doti che tu socializzi, la gente ti segue perché pensa che gli stai aprendo una strada, insomma, no? E, o almeno una parte, questo, una parte, sì, chiaramente, no, e delle persone, certo, ti segue, diciamo, perché parlando di influenza nella comunità, piccolo o grande che sia, insomma. Poi questo però va coniugato con i contenuti e lì diventa molto lì è molto più problematico, sì, rispetto anche a tutti i nomi che abbiamo fatto finora. Ci segnalano Papa Francesco. Vabbè, certo, io non oso arrivare così in alto, lo do per scontato, insomma, certamente. Però per esempio io trovavo molto leaderistico a modo suo anche il Papa precedente, Benedetto, insomma, no? Aveva, diciamo, caratteristiche diverse, molto più cerebrali, però diciamo questo suo modo strano. Più di indipendenza intellettuale, sì, che di trascinatore, di, forse. Di autoreferenzialità, che però molto intensa, insomma, no? Chiaramente non era una persona capace di parlare, di influenzare gli altri con la semplice parola, però la influenzava, diciamo, con questa sua austerità e profondità intellettuale che veniva molto avvertita, no? E lei come si considera una leader? Lei ha detto non lo sono. No, io non lo sono, perché diciamo io penso che, cioè, io nella vita mi considero un analista, no? Cioè il mio giornalismo è un giornalismo, mi considero un giornalista. Il giornalista, il lavoro del giornalista è quello di raccontare le caratteristiche degli altri, quindi giornalista vero è una persona che ti dice cosa sta succedendo e cosa pensa che dalle cose che succede può conseguire. Un giornalista è fondamentalmente un analista, uno che analizza la realtà magari prima degli altri, no? Però le devo dire una cosa, Lucia Annunziata, sa quanti sono i laureati femmine in percentuale nel globo? Il 60%. Mm-hmm. 70% sì, entro il 2030, sì, certo. Eppure ai posti di comando, magari è un discorso che non le piace, ma lei rappresenta anche un genere, e ci arrivano pochissimi nel pianeta e guadagnano in media, sto parlando delle donne, ai posti di comando il 16% in meno. Non lei questa cosa perché la trova assolutamente noiosa. Lei la trova noiosa, sì, lei è arrivata, sì, dunque ai vertici, è stata, no, anche presidente. No, la trovo noiosa perché il problema vero è che non si va da nessuna parte, no? Cioè io sono contro il femminismo, il sindacalismo femminista. Io credo che le donne debbano essere, debbano misurarsi con il lavoro, con la loro condizione di vita, che il loro sfondare, il tetto che sicuramente c'è, la disparità che sicuramente c'è, è un'attività, come dire, umana, non può umana individuale di genere, non dice, certo, per questo l'ho detto magari, e sappiamo le sta antipatica questa, questo tipo di definizione. E torniamo, prima di salutarla, a quello che lei ha fatto quando conduceva Leader e che io trovo una delle caratteristiche dei leader, mi ha ispirato anche per questa lei pubblicamente ha detto, io non so cosa sia successo esattamente in quella puntata che mi sono persa, ho condotto malissimo, è colpa mia, lei si è presa la responsabilità. Fu un casino della Madonna, la prima puntata fu un caso totale, cioè proprio... Io non ho mai sentito un conduttore dire ho condotto malissimo. No, ma le posso chapeau. Dire che... Ma no, le posso dire una cosa? Che sì, io, lo per dica. Esempio, sono una conduttrice che non a caso va bene nelle interviste, perché io per esempio non faccio mai prime serate, in quel caso era la prima serata, mi piaceva l'idea, ma insomma gestire tante persone a me mi riesce molto difficile, no? E quindi era un dato di fatto, non è che uno si deve vergognare di non saper fare una cosa, no? Beh, però richiede grande sicurezza e fiducia in se stessi poterlo grazie, ammettere però. Grazie Lucia Annunziata, grazie per tutti gli spunti che ci ha offerto, la salutiamo, buongiorno, arrivederci. Lucia Annunziata, scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva, che ha incontrato molti di questi leader politici soprattutto, anche se noi oggi non vogliamo limitarci a parlare di politica, perché non è l'unico ambito. Certo, politica non è una parolaccia, doveva essere forse la parte della società affidata, come diceva Aristotele, è migliore, è più nobile, è più colti, non è così. E non solo in Italia, non spariamoci addosso come se concentrassimo tutti i mali del mondo sempre, però a noi interessa molto questa capacità di ispirare, di trascinare, e che può essere rilevata anche in altri settori della società. Abbiamo citato la musica prima, John Lennon. Fu senza dubbio un leader al di là dei suoi meriti artistici. E ci scrive Marcella: il leaderismo in politica è in effetti completamente, completamente diverso dagli altri ambiti. Attenzione a non confondere il concetto di leader, scrive un ascoltatore all'SMS 349-238-6666 per i vostri interventi, con quello di persona di successo. Infatti stiamo chiedendo a voi cosa fa un leader, cos'è un leader, perché ci sono molti, non dico sinonimi, ma voci che si avvicinano ma non definiscono il leader. Per esempio maestro, pensate a quello che fa un maestro, ma un maestro è un leader, ne ha molte caratteristiche, ma non sovrapporrei entrambi i significati. Carlo, buongiorno. Pronto? Buongiorno a voi. Da dove chiama Carlo? Da Roma. Sì, e in che ambito opera lei? O... 2 minuti di storia, 23 anni in banca, poi mi sono messo in proprio a fare un'attività nuova, perché io sono molto spesso identificato come precursore. Identificato da chi? Scusi, a noi fa piacere, non stiamo smentendo questo. Identificato da quelli che mi dicono: ma sei matto, hai lasciato un posto in banca. Sì, mi sono messo in proprio. Ho cominciato a contare i miei soldi invece che quelli degli altri. Devo dire che sono stato un imprenditore di successo perché ho aperto una nuova attività, sono stato... Ma nello stesso campo, nello stesso... No, assolutamente. Ha cambiato rotta, benissimo. Totalmente. Carlo, quindi lei può testimoniare a noi... Che sono di una vostra fortunata trasmissione, sì, sì. Si può fare, si esatto. Può cambiare. Bisogna cambiare, bisogna uscire dai mercati che stanno finendo, entrare, scoprire e fare gli apripista dei mercati nuovi, a rischio, certo. Quindi le caratteristiche del leader, ci sembra di capire anche parlando con lei, sono grande fiducia in se stesso, perché lei non ha senza dubbio problemi di timidezza, e no, poi guardare avanti piuttosto che aspettarsi qualcuno che dice stai facendo bene, perché lo diranno solamente se non fallisci, e è un problema, perché al di fuori della logica americana che se fallisci puoi riprenderti e poi rimetterti in piedi, in Italia se fallisci sei finito. E in questo caso io adesso sto facendo una nuova esperienza con un sistema abbastanza poco diffuso in Italia, che è quello del marketing di rete, del network marketing, dove un sistema tecnicamente americano consente al leader di diventare leader solo se riesce a portare al successo o al risultato i suoi collaboratori, senza lo sfruttamento verticale tipico dei sistemi capitalistici. Se noi non facciamo guadagnare i nostri collaboratori e se noi non li portiamo a formarsi attraverso la nostra guida, attraverso il nostro esempio, prima degli altri, noi siamo quelli che dobbiamo comunque rischiare di più e fare di apripista. E questa logica è ancora molto presto per essere affermata, ma sarà in crescita, perché è una logica che esce completamente dal sistema di sfruttamento del lavoro che conosciamo e che non ha dato risultati per la mia generazione. Io ho 58 anni e devo dire che non mi sarei mai aspettato di arrivare a una situazione paese e a una situazione Europa così difficile in questo momento. Carlo, grazie. Grazie a voi. È molto importante quello che ci ha evidenziato Carlo. Non si può parlare di successo del leader se a condividerne i benefici non ci siano anche coloro che lavorano con lui, che sono con lui, i collaboratori. Domenico De Masi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Osservatore, grande osservatore della società, Domenico De Masi, sociologo, e chiaramente sulla tematica della leadership lei si è soffermato anche in passato, è professore emerito di sociologia del lavoro all'Università La Sapienza di Roma. Partiamo da quest'ultima sottolineatura di questo ascoltatore. Carlo, secondo lei è un'utopia quello che... In questa mezz'ora sono venuti fuori tutti gli elementi della leadership che di solito si ritrovano nei libri paludati. Bisogna tenere conto che esistono centinaia e centinaia di libri sulla leadership dopo le pagine famosissime di Max Weber agli inizi del Novecento, e poi è stato soprattutto il mondo manageriale che ha sviluppato questa tematica regalandoci o riempendoci di centinaia e centinaia di libri, spesso di una banalità terribile, che copiano l'un l'altro. Ma le cose che sono venute fuori fin qui, io mi sono segnato: l'autostima, la fantasia, la concretezza, l'etica, la competenza, il coraggio, decisionismo, è stato detto, anche empatia, decisionismo, e poi io aggiungerei anche eleganza. Scusi, aggiungerebbe? Eleganza. Sì, c'è un leader degli altri quando ha una sua eleganza. Questa era proprio in attesa come, come caratteristica, l'eleganza. Ho sempre importanza all'estetica, che non è soltanto estetica del vestire, naturalmente, sì. Anche se i leader hanno sempre curato moltissimo la loro, diciamo così, eleganza o una loro finta sciattezza. Questi elementi sono venuti fuori, per esempio, che c'è una differenza tra essere un buon giornalista e un buon direttore di giornali, perché il leader è una persona che non fa le cose direttamente, ma riesce a farle fare ad altri. Poi riesce senza neppure parlare, diciamo così, cioè se è seguito in modo senza chiedere, diciamo così, se ottiene senza chiedere, e allora è il leader che noi chiamiamo carismatico. Il trascinatore, cioè il Napoleone della situazione. Pensi che quando Napoleone è tornato dalla campagna di Russia, dove è stato sconfitto, naturalmente sono stati ammazzati decine e decine di migliaia di giovani francesi, arrivato in Germania ha fatto un proclama alla nazione francese in cui diceva: sono morti tanti giovani, sono stati presi tanti cannoni, sono stati ammazzati tanti cavalli, eccetera eccetera, punto e a capo. L'imperatore gode ottima salute, e l'anno successivo è riuscito ad avere altri 200.000 giovani da portare al massacro. Questo è un caso di carisma pericolosissimo. Pericoloso, perché può anche essere molto pericoloso, su questo non ci siamo ancora soffermati, questa capacità che si può anche abusare. Ma prima di tutto, Domenico De Masi, vogliamo capire che importanza riveste in un'organizzazione, non necessariamente non solo politica, un leader. Ci può essere un'organizzazione che ha, diciamo, delle virtù, delle competenze diffuse senza necessariamente avere dei capi che ispirano, qualcuno da seguire, che va avanti da sé, cioè il leader è poi così rilevante? Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Il numero di telefono che mi chiedete via SMS, lo ripetiamo, 800 24 0024. Ancora buongiorno da Irene Zerbini, e abbiamo lasciato in sospeso Domenico De Masi sulla rilevanza, quanto peso poi ha questa leadership nel caso concreto, nella vita pratica, professore? Dipende dal sistema nel quale opera. Più il sistema è maturo, più il sistema è formato, più il sistema è autoconsapevole delle proprie capacità, meno forte è il ruolo del leader. Più il sistema è debole, più emerge l'importanza del leader. Faccio un esempio. Nella storia romana c'è stato un periodo di leadership debolissima. Appio, Claudio, cieco, che oltre a essere mediocre era anche cieco. E quindi riusciva, insomma, meno degli altri a essere agibile e in una società molto militarizzata, diciamo. E ciò nonostante Roma andò avanti benissimo perché era molto forte. Caso più recente, gli Stati Uniti hanno avuto dei presidenti straordinari, ma hanno avuto dei presidenti di una debolezza assurda, come Bush padre, Bush figlio, soprattutto figlio, e ciò nonostante sono andati avanti. Quindi quando il sistema è forte ha poco bisogno di leader. Quando si invoca un leader significa che il sistema è debole, è il caso nostro in questo momento in Italia. È emblematico. Naturalmente a seconda del tipo di sistema cambia il tipo di capo. Faccio un esempio, un sistema burocratico, un ministero, eccetera, ha bisogno di un capo competente, ma un sistema creativo, che sono un gruppo di pubblicitari e così di seguito, dove occorre mettere insieme persone fantasiose e persone concrete, fargli accettare un'unica mission e fargli essere entusiasti del loro lavoro, in un sistema creativo il leader deve essere assolutamente carismatico, altrimenti non ce la fa a tirare via. Io ho studiato oltre 400 gruppi creativi, tra cui che so il laboratorio di Vitale di Montalcini, le truppe di Federico Fellini, eccetera. Più il gruppo era creativo, più il leader era carismatico. Però trasportare questo criterio in una società complessiva, come ad esempio uno Stato, è pericolosissimo. Il leader carismatico porta i propri paesi a grandi livelli e poi li precipita spessissimo in situazioni terribili, come è stato nel caso di Mussolini, di Hitler, ma anche, se vogliamo, di Kennedy, che poi tutto sommato ha... E quindi cos'è desiderabile? Quali sono le caratteristiche che dovrebbe rincorrere la società civile quando si trova a selezionare la classe dirigente politica? Intanto deve selezionarla, cosa che non stiamo facendo noi. Questo no, da anche un meccanismo elettorale che non ce lo permette. Sì. Io sono stato professore, no, delle volte dipende dalla nostra vigliaccheria, io sono stato professore per 40 anni e ho dovuto subire almeno 3 o 4 ministri pessimi che non avevano nessuna capacità, e quando ho incitato i miei colleghi, in un certo periodo ero anche preside di una grossa facoltà di 15.000 studenti con oltre 200 professori, quando ho incitato i miei colleghi a dire dobbiamo almeno scrivere una lettera pubblica in cui diciamo che questo ministro non è assolutamente degno di una grande università, non ho trovato corrispondenza. Quindi dipende molto dalla nostra vigliaccheria. Quando si è in quella fase delicatissima in cui un Presidente del Consiglio e quindi anche un Presidente della Repubblica stanno creando un governo, tutti i giornali dovrebbero essere impegnati soltanto nel darci curricula dei candidati e aprire un grandissimo dibattito nel Paese, in modo che si sappia fin dall'inizio che il ministro non è all'altezza della situazione. In questo momento io credo... La trasparenza dei curricula potrebbe essere invocata per tutti i posti pubblici, quantomeno. Certo, ma cominciando dai ministri, perché quelli hanno un potere enorme. In questo momento noi abbiamo almeno 2 o 3 ministri che non sono assolutamente all'altezza della situazione. Questi fanno guai. Basterebbe su internet appunto pubblicare i curricula, perché poi sarebbe anche imbarazzante difendere certe persone se si vede che la loro storia non dovrebbe portarle a ricoprire quella carica. Un'operazione di trasparenza a costo zero che non si capisce perché nei posti pubblici in Italia non si faccia. Comunque basta entrare in ogni il sito, semplicemente il sito accessibile a tutti, internet di posti pubblici, e non c'è nemmeno la pubblicità della vacanza di un posto, per cui noi ci troviamo sempre a fare i conti con la nomina effettuata, mentre non si conosce nemmeno che era a disposizione, ci si poteva candidare forse per quella posizione. La blocco un attimo, professore, perché abbiamo tanti che vogliono parlare. 800 24 00 24, stiamo cercando di capire con voi se ci sono delle caratteristiche, un denominatore comune che faccia la leadership, e tra poco vi presenteremo, è una storia bellissima, è una persona che è qui con noi ospite e che rappresenta quello che vogliamo così proporre per il futuro, per il futuro. Tra poco, prima gli ascoltatori. Stefano, buongiorno. Pronto? Pronto? Pronto, mi sente? Sì, Stefano, dica. Snoccioli le caratteristiche che secondo lei fanno il leader. Secondo me, per fare un ottimo leader, una caratteristica importantissima è il contesto sociale in cui questo leader compare. Si spieghi meglio. Le spiego. Se siamo in un contesto sociale povero, poco educato, di educazione nel senso... istruzione esattamente, non possiamo aspettarci che compaiano dei leader particolarmente forti, per la semplice ragione che, diciamolo così, devono fare poca fatica per poter emergere in un contesto sociale del genere, mentre in un contesto sociale più istruito si potrebbe innescare una sorta di circolo vizioso, virtuoso, in cui i vari possibili leader combattono tra di loro e ne esce fuori veramente il meglio del meglio. Grazie, abbiamo capito la sua idea, anche se molti fatti e molte biografie smentiscono esattamente quello che Stefano ha appena espresso. Anzi, in contesti a volte di povertà e di scarsa istruzione si sono formati coloro che poi hanno saputo resistere alle opposizioni, alle difficoltà, proprio perché avevano provato difficoltà maggiori all'inizio della loro esistenza. Francesco, pronto, buongiorno. Buongiorno, io ho avuto la fortuna di cambiare 4 volte lavoro. Perché dice la fortuna? Interessante. Ma no, la fortuna anche perché ho sempre cambiato quando ero al top e me ne sono andato quando non mi identificavo più nella realtà in cui operavo. Però che sia un privilegio oggi come oggi? Le giro la domanda che sicuramente sorge a qualche ascoltatore. Avrebbe potuto farlo oggi? No, ma io l'ho fatto oggi, guarda, io ho cominciato come capitano di polizia e sono andato via a 30 anni, ho lavorato in banca 23 anni, ho cambiato 12 posizioni, ho insegnato 3 anni alla facoltà di economia dell'Università del Piemonte Orientale e a 53 anni ho cominciato a fare l'avvocato. Quello che secondo me è importante... Complimenti, Francesco! No, ma non è così, io mi ritengo fortunato, però io dico solo una cosa, c'è una pagina bellissima del Vangelo. Sì. E dici, i capi devono servire, quando c'è la disputa chi doveva stare a destra e a sinistra di Gesù nel posto in cui dovevano andare, Gesù dice, i capi devono servire. Io ho imparato molto dai miei collaboratori, mi sono sempre avvicinato come comunità, il vero leader è quello che serve i propri collaboratori e li mette in grado di produrre. E lei ha operato nel pubblico e nel privato, secondo lei c'è differenza? C'è differenza? Penso sia una responsabilità maggiore quella del leader nel pubblico, anche se poi viene presa sotto gamba. Guarda, le dico la verità, nel pubblico ci sono dei grossi limiti, sono la paura di decidere. Io adesso sto vedendo il pubblico dall'altra parte, no? Mi interessa, per esempio, facciamo entrare nel campo delle edilizie, molte volte i comuni oppure le pubbliche amministrazioni prendono le decisioni non più a servizio dell'utenza, di chi ha bisogno di interfacciarsi col comune, ma quelle che gli parano la schiena, cioè se si tratta di prendere una decisione importante su un'interpretazione della norma è sempre in peius, ma non perché non ci sia la professionalità, perché c'è vigliaccheria. E c'è pavidità. Poi mi permetto di contrapporre, sì, avete detto il professore, io non ritengo che nei concorsi, io ritengo che le competenze si vogliono nei servizi, ma per quel che riguarda la politica, io sono sicuro che molte massaie se ne mettessimo con l'esperienza che hanno e con la sensibilità, potrebbero ricoprire degli incarichi di ministro. Noi abbiamo avuto ministri con dei curricula che facevano paura, ma erano dei perfetti imbecilli. Quindi secondo me, ripeto, cioè non basta il curriculum, no, lei sostiene? Assolutamente, assolutamente, perché abbiamo avuto degli imbecilli. Guarda, mi consenta solo una piccola... Un attimo, la blocco perché è un fiume in piena. Francesco, lei dice coraggio per l'opposto della paura di decidere, lo sintetizziamo così, questa è una delle caratteristiche che vorrebbe vedere, trovare, riscontrare nei leader, soprattutto politici, e mettersi al servizio dei propri collaboratori, cioè imparare da coloro con cui si lavora. Ho capito bene? Avvocato devo chiamarla a sto punto. Ma talmente no, no, tante... non mi chiamo, mi chiamo gli amici Francesco. Guarda, Francesco, sì. Cambierei la Costituzione. Nella Costituzione ci sono proprio i diritti e pochi doveri. Per esempio, io non chiamerei il dovere il potere giudiziario, il potere politico, il potere amministrativo, li chiamerei i doveri dello Stato. Se noi cambiamo la cultura e capiamo che chi va lì deve servire il popolo, non deve servire se stesso, forse miglioreremo tutti. E secondo me già culturalmente la nostra Costituzione è sbagliata quando parla di poteri e non di doveri. Grazie. Grazie a Francesco, mirabile dono della sintesi e un esempio sul coraggio. Cambia vita ancora a 53 anni quando invece molti si fanno bloccare dalle proprie paure. Questa è un'altra delle caratteristiche che ci segnalano. Fa la differenza tra chi leader lo è e chi non lo è. Nello sport, grandissimi esempi ci sono stati adesso. Chiaramente non scendiamo nelle ultime vicende legate a Tavecchio e a quelle tristezze imperdonabili dal punto di vista non solo dell'educazione civica, proprio della sensibilità e della sagacia. Ma nello sport, Dario Ricci, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno Irene. Il nostro giornalista sportivo. Ci sono esempi di leadership, perché uno dei settori che forse mette in luce più di altri questo tipo di caratteristiche. Cosa ti viene in mente, Dario? Devo dire, ci sono tanti tipi di leadership, no? Nello sport c'è il leader esuberante, sempre oltre misura, ma che è adorato dai compagni di squadra e dai tifosi, è un nome su tutti, è Diego Armando Maradona, no? E poi ci sono i leader silenziosi invece, quelli che ancora più che con i gesti e con pochissime parole riuscivano a essere guida per uno spogliatoio. Mi vengono in mente Gaetano Scirea, Agostino Di Bartolomei, Franco Baresi, Dino Zoff, per rimanere nel calcio. E poi ci sono anche dei gruppi che in qualche modo esternalizzano il loro leader, non ce l'hanno spesso in campo, ma in virtù della personalità di questi trascinatori ce l'hanno in panchina. E allora ecco ad esempio Mourinho, che spesso sopravanza e quasi oscura la personalità stessa dei grandi campioni che pure allena. E poi in altri sport mi vengono in mente Julio Velasco, il profeta della nostra pallavolo negli anni 90, che è stato. Sì, ma cosa hanno in comune tutte queste persone che hai citato finora? Beh, quello della capacità di essere guida e di rappresentare il gruppo. Hanno forse una delega in bianco dal gruppo che rappresentano, e al tempo stesso sono in qualche modo animatori, ma anche controllati dal gruppo stesso. C'è un'empatia, un'empatia immediata. Per parlare di una persona che tu hai citato e di un suo connazionale, Maradona e Messi, per esempio, no? Due grandi inevitabilmente col pallone, insindacabilmente. Che differenza? Tu hai citato Maradona, non Messi, come leader. Perché? Beh, perché Diego poi lo possiamo amare, lo possiamo odiare, io sono tra i primi e devo dire che lui sì, era un leader con tutti i suoi chiaroscuri, no? Ma l'empatia che aveva creato con quel Napoli, con quell'Argentina, la capacità di fare in campo sempre la cosa giusta al momento giusto, ne facevano un trascinatore, no? E anche la sua capacità dialettica. Messi è uno che l'abbiamo visto anche nell'ultimo mondiale, nella seconda fase, nella stessa finale, è rimasto un po' preda anche delle sue paure, delle sue umane difficoltà. Beh, Diego sapeva dribblare esemplare anche queste, rimane epica direi la capacità con cui infiammò il San Paolo alla vigilia di quella semifinale che tutti noi ricordiamo tra Italia e Argentina, dell'Italia 90, dei mondiali del 90, quando disse: beh, adesso chiedete a Napoli il tifo per l'Italia, ma quand'è che invece vi dimenticate di Napoli o la chiamate in causa? Solo adesso Napoli e Italia. Una frase e ha infiammato, comprensibilmente. Grazie Dario per questa finestra che abbiamo aperto anche sul mondo dello sport. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Non ha paura di decidere, anche di essere impopolare, ha una finta sciattezza quando non un'eleganza, ci ha segnalato Domenico De Masi, ha empatia e decisionismo insieme e capacità di trascinare, è carismatico. Queste finora le caratteristiche del nostro, della nostra leader, con tanta compassione segnalata dai nostri ascoltatori. Il leader è il pastore di un gregge, ci dice un messaggio che ci ha raggiunto. Al 349-238-6666 vuole il bene delle sue pecore che lo seguono e riconoscono in lui il bene per loro. I professori non sono leader, lo dice Alberto, sono bravi solo a fare i professori, mai visto un professore andare via dalla sua poltrona, non conosco nessun professore leader. Immagino questo sia un messaggio destinato a ricevere anche delle smentite. Attenzione, Maradona era una bandiera, non era un leader, non è la stessa cosa. Questa è l'ultima segnalazione sull'intervento del nostro specialista sportivo Dario Ricci. 800 24 00 24 per le vostre chiamate. La leadership ci si può insegnare, perché ci sono veri e propri corsi, per esempio alla Bocconi. Buongiorno, benvenuto Massimo Magni. Buongiorno. Lei è responsabile del percorso leader, è offerto dalla Bocconi a chi innanzitutto? Il percorso leader è offerto ai manager che vogliono comunque mettersi in discussione e sviluppare le proprie capacità di leadership, e tutto quello che ci siamo detti fino adesso. Sono state dette molte caratteristiche, molte di queste caratteristiche sono le caratteristiche che poi andiamo a esplorare nelle nostre aule. C'è però un elemento secondo me che deve essere ancora messo in evidenza, e questa secondo noi è una caratteristica fondamentale. Dica, venga al punto Massimo, perché dobbiamo stringere. Sì, è la capacità di mettersi in discussione, ovvero la capacità di essere sempre in una situazione di apprendimento, perché questo aiuta i leader a leggere molto più velocemente i cambiamenti della situazione di contesto e quindi a reagire a questo tipo di situazione o agire preventivamente. Ma non si rischia così di essere estremamente influenzabili? Il leader può essere anche influenzabile, perché no? Il leader, prima si parlava di leader carismatico, ecco, il leader carismatico può avere dei pericoli, ha dei pericoli perché naturalmente può portare le persone, l'importante è non seguire un leader carismatico da bendati, diciamo così. E quindi il leader a sua volta può essere influenzato. I manager che voi avete come studenti di questi corsi di leadership si mettono in discussione innanzitutto in un modo concreto, cioè voi entrate nelle aziende dove già lavorano e andate a chiedere conto del loro operato, a chi lo chiedete? Sì, chiediamo immediatamente conto non tanto del loro operato ma dei loro comportamenti, ovvero gli facciamo quello che noi chiamiamo un feedback a 360 gradi. Chiediamo ai loro collaboratori, ai loro capi, ai loro colleghi di esprimersi rispetto a quelli che sono i comportamenti, i punti di forza e i punti di debolezza che vedono nei comportamenti che rappresentano in qualche modo la leadership. E nella sua esperienza ha mai visto una stroncatura di questi manager da parte di colleghi, capi? Assolutamente, la stroncatura. Assolutamente sì o no? Assolutamente sì. Io però non la vedrei come una stroncatura, la vedrei come il punto di partenza dell'autoconsapevolezza del leader. Se c'è una stroncatura vuol dire che vogliamo imparare, dobbiamo imparare, e questo ci permette di andare più avanti. Se fossimo tutti o avessimo tutti i risultati di questi assessment eccellenti, probabilmente non avremmo nulla da imparare, ma questo non sarebbe naturalmente possibile, perché ogni giorno noi abbiamo qualcosa da imparare dai nostri collaboratori, dai nostri colleghi, dai nostri capi. E cosa le dicono quando finiscono il corso questi manager che voi dovreste avere, come dire, potenziato, reso più consapevoli e di punti di forza e di punti di debolezza? All'inizio, diciamo che... Alla fine del corso, cosa vi dicono? Grazie, è stato bello, ho imparato molto, non trovo di essere cambiato più di tanto, cosa le dicano? Ecco, il cambiamento ci vuole nel lungo periodo, nel senso che ci vuole un pochino di esperienza. Ci dicono sicuramente che il corso è stato efficace, è stato bello, che ha aperto degli spunti di riflessione. E poi però li risentiamo dopo qualche tempo questi manager, quando hanno avuto la possibilità di mettere in pratica e di lavorare sull'esperienza di quello che hanno fatto in aula. E quindi diciamo che il primo punto è risvegliamo l'interesse e risvegliamo l'autoconsapevolezza. Grazie a Massimo Magni, responsabile del percorso Leader offerto alla Bocconi, ma sono moltissime le organizzazioni, le scuole che lo fanno, perché si è convinti in qualche modo che se non la personalità, quella ognuno se la porta, se la forma, se la crea, se la nutre, se la cambia, ma alcune caratteristiche della leadership possono essere trasmesse, possono essere insegnate. Chissà che sia così. Voglio chiederlo a una persona che più di tutti, secondo me, incarna queste caratteristiche. Ve la presento tra poco. Intanto Michele da Roma, pronto, buongiorno. Sì. Salve, buongiorno. È certamente un argomento molto delicato da trattare. E sicuramente non credo che in una trasmissione si possa concludere una cosa così complessa. Io credo che prima di tutto bisogna distinguere tra che cosa vogliamo ottenere da un leader positivo o un leader negativo. Nessuno vuole un leader negativo, poi si rivelano tali, chiaro, c'è chi sfrutta l'ignoranza della gente, diventa grande leader. Certo, questo è un problema, ma il problema fondamentale di tutta la leadership è quella che un leader deve avere la prima cosa la umiltà e diciamo la predisposizione al servizio per il prossimo, per la popolazione, per la ricerca, per qualsiasi campo in cui questo personaggio... Umiltà, prima ancora della competenza lei segnala esatto, l'umiltà. Non era ancora stata segnalata, grazie dunque a Michele, questa caratteristica. Maria, buongiorno. Buongiorno, salve. Buongiorno Maria Zanchetta, lei ha sentito la trasmissione fino a questo punto e lei è stata definita un genio e dicono anche che lei lo sappia, Maria, però è normale per lei insomma conseguire certi risultati e tra poco li snoccioleremo anche. Prima vorrei sentire quali sono le caratteristiche del leader. Io mi sentirei di aggiungere a quello che è stato detto prima anche che il leader deve avere l'obiettivo del bene comune e per questo non può seguire interessi personali e deve anche essere scomodo a volte per il bene del paese. Ad esempio, cito un esempio riguardo alla Germania, che sì, è la mia passione. La cancelliera Merkel nella campagna elettorale del 2009, quando poi è stata rieletta, ha detto a chiare lettere che era necessario un leggero aumento dell'IVA per non rendere ancora più grave la situazione delle finanze pubbliche. E questo non è piaciuto, insomma, un po' impopolare come misura? È un po' impopolare, però è stata rieletta, quindi significa che ha avuto la trasparenza di spiegare come stava la situazione veramente delle finanze, non ha raccontato storie, non ha raccontato bugie, non ha preso in giro gli elettori. In questo modo la gente si è sentita sicura e l'ha votata. Infatti dopo ha detto che le tasse sarebbero state abbassate e quando l'ha detto che c'era stato un abbassamento l'ha fatto. Quante lingue parla lei, Maria? Parlo inglese, francese, tedesco e spagnolo. E cosa fa nella vita? Nella vita sono ancora studentessa, studio al liceo linguistico, ho molti progetti e si va avanti sempre. Quanti anni ha, Maria? 16, grazie, perché Maria Zanchetta, l'avete sentita, è stata definita un po' il genio, il clone della Merkel, è una ragazza di grandi prospettive, naturalmente grandissima intelligenza, e ho voluto presentarvela così come colei che per me incarna il leader e il futuro. Ci fermiamo per oggi, saluti e ringraziamenti a Peter Bescapè, a Barbara Bianchi, a tutto il team di Spunti di Vista, Luca Cremonese, Anita Panizza, Alessandro Casali, Irene Zerbini. Non mi ringrazio naturalmente, ma vi do appuntamento a domani alle 8:15. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità.